Bentornati qui su Radio Città Fujiko. Parliamo di un grande ritorno. Qualche giorno fa abbiamo incontrato Francesco De Leo per il ritorno dell'Officina della Camomilla. Oggi invece incontriamo Samuele Torrigiani per il ritorno di Postino. Ciao Samuele. Ciao, buongiorno a tutti e buonasera. Non so quando andrai in onda. Sorpresa. Allora, Samuele, sei tornato dopo 4 anni con un nuovo album che è stato pubblicato il 1 dicembre, L'ordine delle cose da dire. È passato tanto tempo, che cosa ti ha spinto a tornare a fare musica e questi anni in che modo hanno contribuito a questi nuovi testi dell'album appena pubblicato? Sì, allora, io in questi 4 anni, come molti di voi sanno, mi sono dedicato poi alla specializzazione dopo la laurea in medicina in psichiatria. E per un problema appunto per il contratto con l'università e col Ministero dell'Istruzione non potevo poi svolgere altri tipi di attività, per cui ho dovuto poi mettere in pausa il mio progetto musicale che era poi appena decollato nel 2018-19. Però anche se all'inizio appunto mi è sembrata una cosa poi negativa, deleteria per il progetto, in realtà mettermi in pausa, ripensare un po' anche al motivo per cui io scrivo canzoni, per cui mi sono avvicinato al mondo della musica, è stato poi positivo, perché distaccarmi poi dal mercato musicale, da certe logiche in cui vieni poi inserito e infilato anche da chi ci lavora, e quindi non sentire poi la pressione di dover fare dei brani o un secondo album subito per vendere o comunque per ripartire con un ulteriore tour, mi ha dato poi la possibilità di aspettare il momento in cui poi le canzoni nascessero da sole. E il motivo poi per cui sono tornato è perché in questi 4 anni, alla fine, dopo i primi 2 anni, non ho scritto niente e sono stato abbastanza poi concentrato solo sulla specializzazione, sul lavoro in ospedale. Poi c'è stato anche il Covid in quel periodo e quindi io, come tutti poi i medici, lavoravo in maniera particolarmente assidua. E poi dopo, la sera, piano piano, vedevo che via via riprendevo sempre in mano la chitarra, mi veniva voglia poi di mettermi a cantare, a scrivere, e sono nate queste altre 8 canzoni, un po' per esigenza, un po' perché forse appunto avevo delle cose da dire. Infatti l'album poi prende un po' anche questo titolo per questo motivo, per cui il motivo è semplicemente che avevo ancora qualcosa da dire e sono contento che ci siano poi persone disposte ancora ad ascoltarmi a distanza di 4 anni. Poi, ascoltando l'album nuovo, una cosa che spicca sicuramente è un cambiamento di tipo musicale, quindi ho un abbandono di sonorità elettroniche. Quali sono le influenze che magari hai subito in questi anni? Musicalmente? Sì, dal punto di vista musicale principalmente è un brano poi sì acustico suonato, quindi manca tutta la parte elettronica, perché mi sembrava che fosse poi il vestito migliore per questi brani, per veicolare poi il messaggio dei brani stessi, quindi andare un po' più verso il cantautorato e meno verso il pop. Però questo è stato poi anche dovuto al fatto che il produttore poi con cui ho fatto questo nuovo disco sentiva di più anche lui questo tipo di arrangiamento più adatti per questo nuovo disco, e quindi è venuto naturale andare in quella direzione. Prossimamente invece, per esempio, sto lavorando ad altri brani che hanno di nuovo invece assunto una veste elettronica, quindi non è che mi sono posto dei paletti, ho dato dei limiti, semplicemente per quel disco l'ho sentito più un disco da cantautorato, e quindi mi sono più avvicinato a quel mondo, che è poi il mondo che ascolto io da sempre, quindi a partire da Dalla a Niccolò Fabi e tra gli ultimi Brunori, insomma, che per me è uno dei migliori poi in circolazione tra i cantautori italiani. E quindi è questo sostanzialmente. E poi il 7 marzo sarai al Locomotive, qui a Bologna, in concerto. Come ti fa sentire l'idea di tornare sul palco e di trovarti a incontrare i tuoi vecchi fan che in questi anni ti hanno aspettato, o incontrarne di nuovi? Io mi sento abbastanza ansioso, perché per carattere, diciamo, la parte live è quella che soffro di più, perché non mi sento poi troppo adatto a fare la performance sul palco, e quindi è la parte poi del progetto musicale che soffro di più rispetto invece a registrare i brani in studio, allo scrivere. fare da solo, che è la cosa poi che mi piace più fare, che mi viene meglio. E con i fan il rapporto è sempre stato abbastanza diretto, perché io poi anche su Instagram rispondo più o meno a tutti quando riesco, quindi tanti li conosco anche personalmente. Sicuramente, come sono cresciuto io in questi anni, sono invecchiato, io dico sempre sono invecchiato, anche loro saranno cresciuti, cambiati, saranno cambiate anche le prospettive, i punti di vista, le priorità della loro vita, come sono cambiate poi nella mia, e quindi sarà bello poi ritrovarli di nuovo davanti ad un palco dopo 5 anni. Sarà sia bello sia destabilizzante, quindi spero di essere in grado di reggere poi la pressione e la tensione, di restituirgli poi uno spettacolo che si meritano. Tu hai detto che ti senti invecchiato da questi anni e probabilmente non è una coincidenza che il primo brano che hai reso disponibile è stato proprio a 30 anni. Quali Sì. consapevolezze ti hanno portato questi nuovi anni? In che cosa ti senti cambiato? Il primo disco era poi frutto di una visione di un ventenne, perché io l'ho pubblicato, avevo 24-25 anni, però i brani erano stati scritti intorno ai 20. Adesso invece che ho appena, diciamo, scollinato i 30 anni, la visione della vita cambia, perché i problemi sono altri, le responsabilità sono altre, quindi la casa, il mutuo, inizia poi tutta quella diatriba sull'ansia di dover o meno fare figli, se sia giusto o meno fare figli. Quindi sicuramente la mia prospettiva sul mondo è un'altra rispetto a quella che avevo a 20 anni, quando comunque studiavo e vivevo poi una vita da ragazzo, con le delusioni amorose del momento, le relazioni sentimentali più brevi e passeggere, le serate con gli amici. E adesso penso si senta anche nei brani questa maggior consapevolezza. Poi è sempre pregnata da un po' l'aspetto dell'esistenzialismo, che quella però è una cosa che ho sempre avuto, di visione pessimistica un po' sul mondo, e che c'è sempre stata, sia a 20 anni, sia a 30 anni. Quello penso sia il mio modo poi di approccio alla vita. Le cose che restano le stesse. Esatto. Allora, grazie mille Samuele per essere stato qui con noi e per esserti raccontato. Noi invitiamo tutti gli ascoltatori ad andarlo a sentire al Locomotive, ripeto, il 7 marzo, e soprattutto anche ad ascoltare l'album L'ordine delle cose da dire. Quindi grazie mille Grazie a voi. e adesso ci ascoltiamo qui insieme a 30 anni.